Magazine 24, la rassegna dei settimanali. A cura di Mauro Meazza. Buona giornata, bentornati a Magazine 24, la nostra rubrica, il nostro appuntamento settimanale con la stampa periodica italiana e anche straniera. Vorrei parlarvi di un po' di anniversari in questa mattinata. Perché? Perché oggi è il 20 di giugno del 2009, e manca un mese per celebrare un anniversario particolarmente suggestivo, che è quello appunto del primo uomo sulla Luna. Era il 20 luglio del 1969, più precisamente era la notte del 20, tra il 20 e il 21 luglio del 1969, l'Apollo 11 portava sulla Luna Neil Armstrong, il primo uomo, il primo astronauta sulla Luna. Con Armstrong sul modulo che ha raggiunto la Luna c'era Buzz Aldrin, mentre rimaneva in orbita lunare Michael Collins, che era il pilota del modulo. Ecco, a tutta questa vicenda, tutto questo anniversario è dedicato Wired, che è in edicola in questo periodo. No alla Luna è il titolo un po' accattivante della copertina. Perché no alla Luna? Perché l'idea di riprendere i viaggi interplanetari, le esplorazioni interplanetarie, è stata rilanciata dall'ex presidente degli Stati Uniti Bush qualche anno fa, e per il momento anche il neopresidente Obama non ha segnalato modifiche. Allora, Wired, celebrando l'evento di cui presumibilmente sentiremo molto parlare di qui alle prossime settimane, Wired dedica il suo numero in modo quasi monografico all'anniversario e si scoprono delle cose interessanti. Vi segnalo, tra l'altro, una intervista proprio a Buzz Aldrin. Buzz Aldrin è il secondo uomo sulla Luna ed è diventato famoso per questo destino, che decisamente forse non è invidiabilissimo, tant'è vero che si racconta appunto in questo numero di Wired che presentandosi nelle feste, nelle cene, nelle celebrazioni ufficiali che seguirono lo sbarco sulla Luna, Aldrin era solito ormai rispondere: buonasera, non sono Armstrong, cioè non sono il primo uomo che è arrivato sulla Luna, sono, ohimè, il secondo. In questa intervista però Aldrin racconta anche degli aspetti che possono essere interessanti di quel viaggio, ad esempio che si era pensato inizialmente di utilizzare tutto un altro sistema di avvicinamento alla Luna, con due razzi addirittura e non uno, e quindi non arrivare vicino all'orbita lunare, ma invece sfruttare due razzi. Poi questa idea fu abbandonata semplicemente per motivi di risparmi, quindi anche se in quel periodo non c'era una crisi economica, una crisi finanziaria come quella che stiamo vivendo adesso 40 anni dopo, però la NASA, cioè l'ente spaziale americano, scelse l'opzione che faceva risparmiare 2 miliardi di dollari di allora e faceva risparmiare però anche 2 anni di tempo, poiché la promessa di arrivare sulla Luna era stata fatta al presidente Kennedy, poi, come ricorderete, assassinato. C'era anche un aspetto emotivo molto importante. Non so quanti di voi abbiano vissuto in diretta quella notte, è stata una notte ovviamente molto emozionante, e di questa emozione poi fa cenno anche Wired e anche altri settimanali e mensili di cui parleremo. Per molti anni si è discusso dell'utilità dell'andare sulla Luna, e nella affrontare anche questo tema Wired segnala alcune novità tecnologiche che poi sono diventate di uso corrente. Ad esempio, forse non tutti sanno che, viene da dire, il velcro, cioè quel materiale che attualmente si usa moltissimo per i vestiti ma anche per allacciare le scarpe, è nato nei laboratori della NASA. Una volta venduto il brevetto è stato commercializzato con il nome velcro, e in origine in realtà era stato pensato per allacciare le tute degli astronauti. Anche gli elettrodomestici senza fili sono nati per gli astronauti e poi sono stati diffusi invece a livello terrestre, così il termometro da orecchio e addirittura gli apparecchi trasparenti per i denti derivano da un materiale che aveva sviluppato proprio la NASA. Tutto questo su Wired. C'è poi una bella intervista, come vi dicevo, a Buzz Aldrin, il secondo uomo sulla Luna, fatta da un reporter abbastanza speciale, perché si tratta di Giovanni Bignami, è astrofisico, è docente di astronomia a Pavia, e lui stesso intervista Aldrin e Aldrin si lancia anche in qualche ipotesi di ripresa dei viaggi interstellari, che secondo lui dovrebbe essere fatta questa ripresa cominciando da una stazione orbitante e poi da lì cercare di andare su Marte, quindi non più tornare sulla Luna. E questo è il motivo del no alla Luna della copertina di Wired. Ma dell'anniversario del quarantennale della discesa di uomo sulla Luna si occupa anche il è il mensile del Sole 24 Ore, lo trovate in edicola da questa settimana, e nel celebrare appunto l'anniversario dell'uomo sulla Luna ci ricorda tra l'altro che grazie ai viaggi interstellari sono nate anche le fibre ottiche. Le scoperte scientifiche appunto fatte nel corso del progetto Apollo hanno portato alla nascita dei microprocessori per i computer, dei forni a microonde, del teflon e delle ceramiche termiche per i motori di auto e aerei, nonché le fibre ottiche per le comunicazioni telefoniche. 110 miliardi di euro è costato andare sulla Luna, ma le applicazioni sono state effettivamente molte. Cambiamo anniversario restando su Hill, perché 10 anni prima che l'uomo sbarcasse sulla Luna succedeva qualcosa di meno epocale, di meno storico, ma abbastanza importante per la nostra vita quotidiana. Infatti nel 1959, ci ricorda Hill, la Sony ha lanciato il primo apparecchio televisivo portatile. Guido Furbesco, scrivendone appunto su Hill di questo mese, ci informa che una volta svanita l'eccitazione delle presentazioni ufficiali, incassate le vendite dei primi e costosi modelli, giunse implacabile per i televisori portatili, i primi televisori portatili della storia, l'ora dei rimbrotti. Trainato dalle piccate lamentele, spuntò pure un velenoso soprannome: Frail Little Baby, cioè più o meno fragile piccolo bambino. Inutile negarlo, passino le fanfare retoriche della novità mondiale, ma la Sony TV8301, questa era la sigla, si rompeva un po' troppo spesso e le frequenti defiance tecniche non mancarono di indispettire i suoi facoltosi acquirenti. Sedotti dalla possibilità di sistemare in salotto, ma soprattutto in qualsiasi altro luogo volessero, il primo apparecchio portatile della storia della televisione. È interessante sapere che lo sviluppo del televisore portatile a opera della Sony derivava in qualche modo dagli esiti della Seconda Guerra Mondiale. Infatti la Sony aveva questa leadership nel campo delle tecnologie radiotelevisive che doveva tutto, come scrive Furbesco su Hill, alle strategie geopolitiche della Casa Bianca. Perché, come appunto ha ricordato Jane Pavitt in una recente mostra, nell'ondata di aiuti destinati al Giappone, che era stato sconfitto nella Seconda Guerra Mondiale e occupato fino al 1952, fluì anche il patrimonio di conoscenze legate alla giovane industria del transistor, sbocciata nei laboratori americani della Bell, ma destinata ad attecchire con successo al di là del Pacifico. Quindi un altro anniversario importante, anche se, ripeto, meno epocale di quello del primo uomo sulla Luna. E visto che parliamo di anniversari, andiamo indietro ancora di 10 anni, perché sul mondo di questa settimana si presenta appunto l'anniversario della fondazione della storica rivista. C'è allegato, trovate allegato con Il Mondo in edicola, una raccolta degli articoli del 1949 scritti dalle più prestigiose firme del mondo di Pannunzio, un allegato che trovate con Il Mondo. In questa raccolta degli articoli del 1949 ci sono testi di Ennio Flaiano, di Luigi Barzini Junior, di Alberto Moravia, di Vitaliano Brancati, di Antonio Cederna, di Giovanni Spadolini e di molti altri ancora. Tra l'altro vi segnalo un articolo ancora molto attuale in un certo senso, scritto da Guido Carli all'epoca, che diceva: gli ambienti ufficiali non amano la parola crisi, con essa si collegano immagini così terribili che non si osa neppure pronunciarla. Essa è stata sostituita con l'espressione recessione. Recessione sarebbe un processo di aggiustamento dell'economia nel corso del quale si verificherebbero taluni dei fenomeni propri della crisi, ma si tratterebbe di dispiaceri transitori ai quali, compiutosi il processo di aggiustamento, seguirebbe la prosperità. Ecco, quindi una cautela linguistica che era in uso anche molti molti anni fa, appunto nel 1949, ovvero nel momento in cui usciva per la prima volta Il mondo di Pannunzio, e questi articoli li potete ritrovare ancora nel Mondo in edicola questa settimana. Magazine 24. Bentornati dopo questa ondata di anniversari, il primo uomo sulla Luna, ma anche il primo televisore portatile fatto nel 1959 e i primi articoli de Il Mondo nel 1949. Facciamo invece un salto nel presente e magari anche nel futuro prossimo. Sull'Espresso di questa settimana si parla di libro elettronico. È un po' di mesi che si parla di libro elettronico, ci sono grandi aspettative su questa forma di comunicazione che da anni cerca di sfondare, ma che per diversi motivi non ha mai preso definitivamente piede. Si annuncia però qualche svolta importante. Infatti la California, ci informa Paolo Pontoniere sull'Espresso, ha annunciato che a partire dall'inverno di quest'anno sostituirà i testi scolastici con le loro versioni elettroniche. Per facilitare la transizione, il governatore Arnold Schwarzenegger ha promesso che dall'anno prossimo gli studenti delle scuole superiori, a dispetto del fatto che lo Stato è sull'orlo della bancarotta, verranno equipaggiati con lettori elettronici. A rinfocolare poi ulteriormente la competizione, informa sempre Pontoniere, è intervenuto a Google annunciando il lancio di un nuovo mercato editoriale online per i libri di nuova pubblicazione. Quindi forse è vicino il momento in cui sarà comune leggere i libri dalla rete, leggere i libri in formato digitale anziché in cartaceo, un po' come è successo in fondo per la musica. L'Espresso ci presenta anche una raccolta dei prodotti attualmente offerti sul mercato. Il più noto è questo Kindle, lanciato nel 2007, ora c'è una nuova versione, è diventato lo standard di riferimento del settore. C'è ora anche un Kindle DX che serve a leggere i quotidiani, le riviste e i documenti fuori formato, ma ci sono diversi altri prodotti in circolazione. Il Kindle DX, appunto, che è questo Kindle più grande che consente di leggere riviste e quotidiani, è anche un concorrente con ancora la Sony, con il suo e-reader che gli fa concorrenza. Per ora sono questi i supporti su cui sembra di potersi avere maggiori speranze di diffusione, anche se il libro elettronico è stato più volte annunciato come utilizzo prossimo venturo, ma in realtà ha avuto più di un intoppo. Ancora un'altra frontiera, ma che riguarda invece i telefoni cellulari: usare due SIM diverse, due schede diverse. Una cosa che probabilmente non molti fanno, ma ci informa Alessandro Longo sull'Espresso, fanno molto i più giovani, perché avere due SIM è un'astuzia che, scrive Longo, rende pan per focaccia agli operatori al loro labirinto di tariffe, dove il prezzo per una chiamata o un SMS cambia molto a seconda del numero del destinatario o delle opzioni che l'utente ha attivato. Una recente inchiesta dell'antitrust e l'autorità garante rivela che gli operatori hanno trovato galline dalle uova d'oro in quegli utenti, sono il 25% del totale, che ancora pagano gli SMS a prezzo pieno, cioè 15 centesimi. A differenza di altri, non sanno o non vogliono destreggiarsi tra le tariffe per ottenere prezzi migliori, anche di 3 volte più bassi per gli SMS. I giovani invece sono più smaliziati e quindi possono adattarsi a cambiare, a sostituire la SIM del telefonino. In realtà quello che viene segnalato dall'Espresso è che potrebbero presto essere in commercio dei telefonini, già esistono e vengono venduti, ma in altri paesi, che sono in grado di ospitare due SIM, quindi evitando all'utente l'operazione fisica di dover smontare il telefonino, sfilare una SIM e sostituirla con quell'altra. La Samsung aveva già tentato di importare lo scorso anno questo tipo di telefoni, è stata poi fermata da un'azione legale. Ci sono altri produttori come LG che hanno già in catalogo questo tipo di cellulari, e quindi potrebbe essere abbastanza comune avere più SIM in modo da sfruttare al meglio le offerte che vengono fatte dai gestori. Restiamo sull'Espresso per parlare un pochino di lavoro e di economia. C'è un po' di preoccupazione per quello che riguarda il mercato del lavoro, comprensibile preoccupazione. L'Espresso presenta un articolo di Luca Piana, Michele Sasso e Paolo Tessadri, che segnala come potrebbe presto arrivare anche nelle statistiche ufficiali l'effetto delle ristrutturazioni, un effetto che dovrebbe partire con la fine della cassa integrazione. Intanto una tabella che appunto correda questo articolo dei tre autori, Piana, Sasso e Tessadri, ci informa che ci sono in questo momento 15 milioni di dipendenti a tempo determinato con 15.000 somministrati, cosiddetti somministrati, e ci sono 1,5 milioni circa di dipendenti a termine, a cui vanno aggiunti più o meno 500.000 di collaboratori. In pratica si ha una popolazione di 17 milioni, quasi 18 milioni di occupati. Occupati che hanno in questo momento qualche difficoltà perché la crisi appunto finanziaria è diventata anche crisi industriale e quindi ci sono dei riflessi sull'occupazione molto importanti. Però ci sono anche delle buone notizie che si collegano alla crisi. Una ci viene appunto da il mensile del Sole 24 Ore. Dolce vita, con un poco di zucchero anche la crisi va giù. Sarà per questo, si chiede Marta Casadei, che da quando il mondo è in recessione le vendite di caramelle sono aumentate. Avevamo già parlato mesi fa dell'indice del rossetto: quando c'è un momento di difficoltà economica aumentano le vendite dei cosmetici di base, questo dicono almeno i numeri, e sembra anche che aumentino le vendite dei dolciumi, delle caramelle. E infatti la locomotiva del trend sono ancora una volta gli Stati Uniti. Da Wall Street a Chicago, da San Francisco a Miami, i consumi di caramelle sono aumentati a partire dall'inizio dell'anno. L'hanno confermato il New York Times, i gestori dei candy store, delle declinazioni iperglicemiche del paradiso in terra, dove si possono trovare le più inusuali, le cornie in formato gigante, che sventolano soddisfatti i propri bilanci in positivo. Quindi il mercato delle caramelle è un mercato a prova di recessione, anzi sta risalendo negli Stati Uniti. In Europa, si chiede Casadei, il mercato delle caramelle e delle gomme da masticare è un business da noi maturo, fa registrare variazioni contenute, è la testimonianza del direttore marketing della Perfetti, Alberto Bruno. Il trend effettivamente è in crescita, però non c'è nessuna impennata nei profitti. Vistosi incrementi a parte, a essere diversa è la mappa dei consumi, perché informano la voce principale del fatturato italiano, sono le gomme da masticare. In questo settore si sta investendo molto, si punta su prodotti innovativi, anche perché ad esempio i divieti, il divieto di fumo da noi oramai normale da diversi anni, ha portato a un consumo maggiore ad esempio di questo tipo di dolci. E allora, per chiudere con l'argomento crisi, vi segnalo che col Sole 24 Ore trovate in queste settimane anche una raccolta di saggi appunto intitolata Oltre la crisi. Speriamo che il titolo sia di buon augurio. Sono saggi con Harvard Business Review. Si tratta di 11 saggi di Harvard Business Review e contengono, diciamo, il meglio del pensiero economico internazionale per superare la recessione. Ci sono scritti di premi Nobel, di famosi manager, ognuno affronta la tematica della crisi, delle difficoltà dal suo punto di vista, consigliando anche come poter trasformare questo momento di lentezza in opportunità. E chiudiamo cambiando completamente discorso, perché domani, quindi veniamo veramente al presente, che più presente non si può, domani si riaprono le urne. Non intendiamo parlare di politica naturalmente, ma c'è qualche numero importante che è emerso dalla tornata elettorale delle europee che vale la pena di segnalare. Ce lo ricorda Luca Ricolfi su Panorama di questa settimana: il partito del disincanto è il più grande, anche se non manda nessuno in Parlamento. La sua esistenza getta un'ombra sulla politica perché, a differenza che altrove, in Italia il non voto non è frutto di maturità democratica. L'analisi di Ricolfi nella sua rubrica Fatti e credenze si concentra quindi sull'astensione. Come sapete, alle europee ha votato appena il 43,2% degli elettori, se consideriamo la media europea, e anche se l'Italia ha avuto una media, un'affluenza migliore, comunque il numero di chi non si è recato a votare è molto elevato, siamo al 38%. Si chiede Ricolfi quale effetto può esserci, come dobbiamo leggere questo dato, spiega che ci sono democrazie mature in cui poche formazioni, al limite due, si contendono il consenso e gli elettorati potenziali sono compenetrati. Cosa significa? Significa l'elettore che oggi vota da una parte non esclude di votare poi dall'altra domani. Questo è più difficile, sembra più difficile in questo momento in Italia, e per questo, è l'analisi di Ricolfi, è preoccupante il dato delle astensioni delle persone che non hanno più voglia, non sentono più il bisogno, la necessità di andare a votare. Tanto per chiudere con qualche numero, i maggiori partiti italiani arrivano l'uno al 21%, l'altro al 16% dei votanti considerati nel loro complesso. Davvero un po' poco, e speriamo che domani l'astensione invece non debba segnare un ulteriore record. E con questo il tempo a nostra disposizione è finito. Io ringrazio Valeria Bernardi per l'assistenza in regia, Vittoria Mussini e Daniele Casagrande per l'assistenza al programma. Grazie e buona giornata a tutti.